Mercato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ho visto senza più felpa. Le devo lavare dopo 15 giorni, anche noi leghisti laviamo le felpe ogni tanto. Questo è Matteo Salvini, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, iniziamo con lui questa settimana, visto che la notizia più importante di oggi sono i risultati delle elezioni regionali che si sono svolte ieri in Calabria e in Emilia-Romagna. Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, decisamente contento oggi, anche ieri, insomma, i risultati sono poi avuti oggi per l'esito di Alan Fabbri in Emilia-Romagna, del loro candidato. E qui sapete che lo prende in giro anche Crozza con tutte queste felpe che si cambia ogni volta, ce n'è una giusta con il nome della città o della regione giusta, e oggi avevano notato alcuni giornalisti che non ce l'aveva questa felpa, era in giacca e cravatta, evidentemente le aveva consumate tutte, erano in lavatrice. Parleremo molto di politica questa sera, perché sicuramente, anche se ha vinto il centrosinistra nelle due regioni, ha soprattutto vinto l'astensionismo, la gente non è andata a votare, ma soprattutto in Emilia-Romagna più che in Calabria, perché in Emilia-Romagna ha votato poco più del 37%, mentre in Calabria il 44%. Ora, secondo voi questo astensionismo a cosa è dovuto? Al fatto che non ci sia stata molta informazione, perché erano delle elezioni regionali locali, perché colpa dell'antipolitica, colpa della poca informazione, o colpa del fatto che chi governa non ha ancora dato delle risposte convincenti? Potete rispondere a questa domanda sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, già ci sono dei messaggi, oppure gli sms al 349-238-6666. 349-238-6666 o la pagina Facebook di Effetto Notte. Intanto, come sempre, iniziamo la settimana, vi racconto la giornata. Elezioni regionali, Renzi dice abbiamo vinto, l'astensione è un fatto secondario, ma Salvini attacca, pronto a sfidarti al nord e al sud, Fitto attacca Berlusconi, i dati sulla Calabria intanto slittano domani, ma Oliverio ha vinto. Stati Uniti, si dimette il capo del Pentagono, Obama commenta è tempo che lasci. Ebola, medico italiano di emergency, contagiato in Sierra Leone, il primo italiano, sarà trasferito allo Spallanzani di Roma. L'accusa chiede 30 anni per Stasi nel processo di appello bis per omicidio di Garlasco, con l'aggravante della crudeltà. La neonata morta nel cassonetto, la madre è stata rintracciata in ospedale, ha altri tre figli. Garante degli scioperi, l'autorità decide che per il 12 dicembre non potranno fermarsi i trasporti. Bollette, via libera l'aumento di quella dell'acqua, nel 2014 rincara del 3,9%, nel 2015 salirà del 4,8%. Calcio Champions League, domani a Roma, la Roma a Mosca, Formula 1, nuovo cambio a Maranello. Siamo quindi dalla politica, fa discutere. Allora, dopo voto in Emilia-Romagna e in Calabria, per Renzi è una vittoria, anche se l'astensione deve far riflettere, ma Salvini, che con la Lega rivendica un risultato storico, attacca, sono pronto a sfidarti da nord a sud. Insomma, poi c'è la resa dei conti in Forza Italia. Matteo Renzi incassa una nuova vittoria elettorale e assicura che il risultato delle regionali non farà cambiare l'agenda del suo governo. Le riforme, ribadisce, restano la priorità. La bassa affluenza è un elemento che deve preoccupare, ma che è secondario, afferma poi il Premier. Che se ne dica, oggi non è che tutti hanno perso. Oggi c'è un nuovo presidente della regione Emilia-Romagna che ha vinto, un nuovo presidente della regione in Calabria che ha vinto, e le forze politiche che hanno contestato le riforme possono valutare i risultati che hanno ottenuto. Nonostante la vittoria, in molti nel Partito Democratico invitano a non sottovalutare l'astensionismo, va battuto con la credibilità della politica e delle istituzioni, commenta il sottosegretario del Rio. A festeggiare per l'esito del voto è anche la Lega Nord, che in Emilia, doppiando Forza Italia, è diventata la seconda forza politica dopo il PD. Il pallone di Renzi si sta sgonfiando, attacca il leader del Carroccio Salvini, che parla di risultato storico ma non si sbilancia sulla leadership del centrodestra. Abbiamo quadruplicato i voti in 6 mesi, non facendo i maghi di professione, evidentemente abbiamo un progetto che la gente piace. Il leader del centrodestra lo diranno gli italiani nelle piazze. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Non un confronto, ma una vera e propria resa dei conti, e anche violenta. Sale ai massimi livelli la tensione in Forza Italia. A lanciare il primo affondo il deputato azzurro Raffaele Fitto, che dal suo blog parla di risultato drammatico in Emilia-Romagna e Calabria, di clamorosi errori e chiede l'azzeramento di tutte le nomine e un chiarimento sulla linea del Nazareno, diagnosi corretta anche secondo altri esponenti di Forza Italia come Capezzone, Matteoli e lo stesso Brunetta, chiede di rivedere il patto del Nazareno. I fedelissimi di Berlusconi intanto alzano un muro, Fitto punta il dito, attacca Giovanni Toti, ma è un dirigente del partito da anni. Acque agitate anche tra i 5 Stelle, il risultato è deludente, in particolare in Calabria, ma Grillo si limita a dire che l'astensionismo, soprattutto in Emilia Romagna, non ha toccato il movimento. I dissidenti però non ci stanno, parlano di sonora sconfitta e chiedono un cambio di passo. Meno in Parlamento e più in piazza, dice Di Battista. Domani assemblea dei parlamentari per l'analisi del voto. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E in serata è arrivata la notizia che slitta domani il dato definitivo delle regionali in Calabria, perché in due sezioni sono state riscontrate delle incongruenze sui dati. Il Viminale, cioè il Ministero dell'Interno, secondo quanto si è appreso da fonti della Prefettura e del Comune, ha quindi disposto una verifica che sarà fatta domani in Tribunale a Cosenza. Però questo rinvio non influisce sulla vittoria del neopresidente Oliverio. E sentiamo appunto i due vincitori, a cominciare da Stefano Bonaccini, nuovo governatore PD in Emilia Romagna. I capisaldi del programma, come vi avevo detto, sono da un lato il tema del lavoro e dell'occupazione, sarà la mia e l'ossessione di coloro che con me guideranno questa regione in giunta. Noi abbiamo bisogno di creare tutte le occasioni per creare nuovi posti di lavoro, attrarre investimenti ovunque possibile, spendere bene tutti i fondi europei possibili. Questa è una regione da questo punto di vista molto virtuosa. E ora in Calabria Mario Oliverio, candidato del PD, che ha ottenuto il 61% dei voti. Noi dobbiamo aprire un cantiere per ricostruire, per rimettere in piedi la nostra terra, per aprire una prospettiva di crescita, di lavoro e di sviluppo. Per farlo apriremo subito un confronto su un terreno nuovo con il governo del paese. E ora parliamo di Ebola, perché c'è il primo contagio di un italiano che è un medico in Sierra Leone, lavora per Emergency, nella notte verrà ricoverato in Italia allo Spallanzani di Roma. Dicono che il paziente è in buone condizioni e poi Emergency dalla Sierra Leone dice che la situazione è drammatica, l'epidemia si espande con oltre 100 nuovi casi al giorno. E, sì, direi di sentire questo servizio. È un medico che opera al centro per malati di Ebola di Lacca, di Emergency, il primo cittadino italiano contagiato dal virus. L'uomo ha seguito una formazione specifica sui controlli di protezione per evitare il contagio e la diffusione del virus, come spiega Cecilia Strada. Evidentemente lavorare in un contesto del genere il rischio non può essere completamente eliminato. Quindi sappiamo che di Ebola ci si può ammalare, anche se lavori in sicurezza sappiamo che di Ebola si può guarire. Quindi siamo fiduciosi. Il medico, di cui non sono state diffuse le generalità per tutelarne la privacy, è in buone condizioni di salute, conferma l'ONG. Due sono in Italia i centri di riferimento per rispondere alle emergenze sanitarie di natura infettiva come Ebola. Si tratta dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma, dove l'uomo arriverà in nottata, e l'ospedale Luigi Sacco di Milano. Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Andremo a prendere il nostro medico, che poi sarà trasportato sempre con misure di alto contenimento e quindi con autoambulanze attrezzate direttamente dall'aereo all'ospedale. In questo percorso è un corridoio di sicurezza in cui non ci sarà nessun contatto esterno. Valentina Furlanetto, Radio 24, Sole 24 Ore. Spostiamoci all'estero. Dopo giorni di polemiche negli Stati Uniti, di dissidi con Barack Obama, il ministro della difesa americano Chuck Hagel si è dimesso. È il momento giusto per cambiare, ha detto Obama, confermando il passo indietro appunto del veterano del Vietnam e repubblicano che ha gestito il ritiro parziale delle truppe dall'Afghanistan e i tagli alla difesa. All'origine del divorzio ci sarebbero delle tensioni sulla gestione della minaccia, delle minacce dell'ISIS. Poi ci colleghiamo direttamente con gli Stati Uniti per parlare di questo, anche perché c'è un'altra notizia di una sentenza che dagli Stati Uniti dovrebbe arrivare a breve, ma ci andiamo tra poco. E adesso parliamo anche della trattativa sul nucleare iraniano. Il presidente iraniano Rouhani, in un discorso televisivo, ha affermato che i negoziati nucleari con le potenze del gruppo 5+1 a Vienna sono riusciti a ricomporre la maggior parte delle divergenze e si concluderanno l'anno prossimo con un accordo definitivo. Quindi insomma c'è ancora un po' di tempo da aspettare. Torniamo in Italia con la cronaca. I carabinieri hanno rintracciato la madre della neonata gettata viva in un cassonetto a Palermo e poi morta. La donna è ricoverata all'ospedale Cervello, dove si è recata dopo il parto. Si tratta di una 31enne che ha altri tre figlie, che avrebbe la residenza a Gemona, nel Friuli Venezia Giulia. L'autorità per l'energia elettrica, parliamo di bollette, per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici, ha approvato le nuove tariffe 2014-2015 per l'acqua, per la prima volta calcolate con un metodo omogeneo in tutta Italia. Per 34 milioni di italiani vi sarà un aumento in bolletta del 3,9% quest'anno e del 4,8% il prossimo, mentre 6 milioni vedranno in calo un calo della tariffa del 10%, si tratta degli utenti di quelle imprese che non hanno inviato i dati richiesti. E parliamo anche dello sciopero generale annunciato dalla CGIL e anche dalla UIL per il 12 dicembre e dall'UGL. Non potrà riguardare questo sciopero i settori del trasporto aereo, ferroviario a livello nazionale e del trasporto pubblico locale a livello territoriale. Quindi, insomma, non potranno fermarsi i trasporti. Lo ha deciso l'autorità di garanzia, che ha evidenziato l'irregolarità formale della proclamazione. Siamo allo sport. Con la Formula 1 c'è un nuovo cambio a Maranello. La voce degli ultimi giorni è diventata un comunicato ufficiale. Maurizio Arrivabene, 57 anni, prende il posto di Marco Mattiacci alla guida della gestione sportiva della Ferrari. Scelto da Sergio Marchionne, arriva a Maranello dopo una lunga carriera in Philip Morris, lo storico sponsor della Rossa, di cui è diventato vicepresidente. Vicinissimo ad Andrea Agnelli, siede come consigliere indipendente nel CDA della Juventus, conosce bene l'ambiente delle corse, avendo seguito le attività del partner Ferrari in tutto il mondo. Non a caso ha un ruolo di primo piano pure nella F1 Commission dal 2010 come rappresentante di tutte le aziende che investono nella Formula 1. Finisce invece dopo appena 7 mesi l'avventura di Marco Mattiacci al timone della gestione sportiva. Chiamato da Montezemolo per sostituire Stefano Domenicali, il manager romano da 15 anni in Ferrari, ex capo dei mercati americano e cinese, lascia quindi l'azienda. L'ennesimo addio in un 2014 che sarà ricordato come l'anno della rivoluzione rossa. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E su questo possiamo ritenere il riassunto della giornata fatto. Sto vedendo molti vostri messaggi che stanno arrivando sull'astensionismo che ha vinto nelle due regioni ieri dove si è votato, Calabria e Emilia Romagna, e potete mandarli sia al 349-238-6666 sia alla pagina Facebook di Effettonote. Per esempio, ne leggo qualcuno: mi stupisco che ci sia ancora chi voti, dice un ascoltatore o ascoltatrice. Grillo può dire, dice un altro, quel che vuole. Il grande sconfitto è il Movimento 5 Stelle, dovrebbe essere la forza votata da chi è deluso, ma ha fallito miseramente. L'astensione ne è la prova. Vediamo ancora qualche messaggio sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ingrid dice: l'astensionismo è causato dalla lontananza della politica dalla gente e dai problemi reali. Giuseppe dice: non preoccuparti mai quando i sudditi gridano e si lamentano, comincia a farlo, a preoccuparti quando stanno zitti. Dice che la situazione è di un re. Fina dice: colpa del malgoverno e 2000 punti esclamativi. Riccardo: la persona in generale, quando si sentono prese in giro, smettono di andare a votare. Se Renzi ha lo stesso approccio di Berlusconi, tra parentesi 2002, sulle protezioni sociali, votare turandosi il naso diventa impossibile. Poi molti altri messaggi, voi continuate a scriverli. Adesso aggiorniamo chi viaggia e ne parleremo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie ve le ricordo tra poco, ma voglio ancora leggere qualche vostro messaggio, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia al 349-238-6666, sentire cosa ne pensate di questo astensionismo di ieri. Aldo da Verona: gli italiani sono stanchi di ingrassare i maiali di Roma, ecco il motivo della scarsa affluenza. Poi un altro ascoltatore: la grande astensione in Emilia è motivata da 40 consiglieri regionali indagati. Eleonora scrive: con Sel più 4% e meno 20% il PD, Bersani insegna. Paolo da Modena: non sono andato a votare perché sono tutti uguali e Renzi uguale agli altri, forse avrei votato Lega per abolire Fornero ed Euro, solo chiacchiere, distintivo, zero fatti, dice. Ma adesso le notizie. E quindi partiamo dalle regionali di ieri. Renzi dice: vince il PD, l'astensionismo è solo un fatto secondario, la Lega doppia Forza Italia. Fitto di Forza Italia attacca Berlusconi, dice: bisogna azzerare tutte le nomine, rush finale sul Jobs Act, dovrebbe essere approvata la riforma per mercoledì. E poi Ebola, il primo contagio italiano è un medico in Sierra Leone che lavora per Emergency. E Obama in Stati Uniti cambia il capo del Pentagono, divergenze sulla guerra all'ISIS. La bolletta dell'acqua che rincara del 3,9%, il delitto di Garlasco, l'accusa chiede 30 anni per Stasi, poi ne parleremo di questo. E poi alla Ferrari, nuovo ribaltone, via Mattiacci, arriva bene, questo è il suo cognome che è già tutto un programma. adesso parliamo prima di tutto naturalmente delle elezioni regionali che si sono tenute ieri domenica in Emilia-Romagna e in Calabria, e diciamo che l'esito per certi versi è dato piuttosto secondo le previsioni, no? Con la vittoria del centrosinistra e un forte astensionismo, anche se l'astensionismo è stato superiore a quello che si immaginava. Però ci sono due dati andati oltre misura rispetto a quello che era stato previsto, cioè una certa debacle di Forza Italia e il successo della Lega in Emilia-Romagna, tanto che è diventata il secondo partito nella terra rossa dell'Emilia-Romagna. Su questo poi farò sentire alcune affermazioni, file di Renzi, di Salvini, eccetera, ne discuteremo insieme. Ma voglio innanzitutto salutare la professoressa Elisabetta Gualmini, bentornata professoressa. Grazie mille, buonasera a tutti. Buonasera, politologa, presidente dell'Istituto Cattaneo, docente di scienze dell'amministrazione e politiche del lavoro all'Università di Bologna. Professoressa, quindi anche il dato dell'astensionismo è stato anche più forte di quello che ci si aspettava, era uno spettro che aleggiava su queste elezioni, ma è stato davvero preponderante. Allora vorrei però far sentire subito Renzi, che su questa cosa ha abbastanza minimizzato. Sentiamo Renzi. Credo che il risultato, che vede le forze del Partito Democratico confermare il 40% delle politiche, che debbano essere risultati da accogliere con grande soddisfazione. Il fatto che in elezioni regionali non ci sia stata una grande affluenza lo trovo un elemento che naturalmente deve preoccupare e far riflettere, ma che è un sicuramente secondario rispetto al fatto che se ne dica, oggi non è che ci sono tutti hanno perso, non è così. Oggi c'è un nuovo presidente della regione Emilia-Romagna che ha vinto, un nuovo presidente della regione in Calabria che ha vinto, e le forze politiche che hanno contestato le riforme possono valutare i risultati che hanno ottenuto. E ve lo ricordo che in Emilia-Romagna il neo governatore, neo presidente della regione è Stefano Bonaccini del centrosinistra, con 49% contro il candidato della destra, del centrodestra, Alan Fabbri, che ha avuto il 29,9%. In Calabria Mauro Oliverio col 61,4% contro la candidata di centrodestra Wanda Ferro, che ha avuto il 23,6%. Però Salvini dice, a proposito dell'astensionismo, secondo Renzi la bassissima partecipazione al voto è un problema secondario, incredibile come certa sinistra dice disprezzi la gente. Questo lo scrive su Twitter. Sentiamo anche Salvini. La valutazione è che non ha vinto nessuno, visto che due persone su tre sono rimaste a casa. E quindi, a differenza di Renzi che gongola e twitta, noi ci domandiamo il perché in una regione di solito partecipativa come l'Emilia-Romagna ci sia un dato di astensione come questo, e facciamo anche un esame di autocritica per capire come in futuro proporci ai non elettori in maniera seria, credibile, concreta e coinvolgente. Quindi non andiamo in giro a stappare spumante, cosa che la vecchia politica ci permetterebbe di fare, perché in ogni caso l'Emilia-Romagna è un segnale negativo per la democrazia e per la partecipazione in quanto tale. Poi dopo faremo sentire anche tutte e due, si dicono felici alla fine sia Renzi che Salvini. Professoressa, che pensa? Soprattutto è interessante quello che è successo in Emilia-Romagna, no? Anche naturalmente la Calabria, ma qui c'è la Lega che doppia la Forza Italia, quella che era la roccaforte, la terra più rossa d'Italia, che perde così tanti voti per quanto riguarda il centrosinistra. Che dice? Dunque, innanzitutto ogni leader politico ovviamente tira l'acqua al suo mulino, giustamente, ma sì, ovviamente la tensione è stata molto alta, anche se ci si aspettava che le persone andassero poco a partecipare e a votare, perché ci sono state indagini nelle due regioni, i governatori si sono dimessi, quindi c'erano vari fattori strutturali che erano contro, anche il fatto che si votava solo in Emilia-Romagna e in Calabria, quindi molte persone, a dire il vero, non erano informatissime. Detto questo, in Emilia sicuramente ci si aspettava che votasse una percentuale maggiore di elettori, penso che sia un voto contro un ceto politico che ha dimostrato, insomma, di non essere così corretto anche dal punto di vista dell'utilizzo dei fondi pubblici. La questione morale sappiamo che è molto sentita, in particolare nell'elettorato di centrosinistra, e quindi questo si è sentito. In più, il crollo, diciamo, di Forza Italia, e con un Berlusconi in inagibile, nel senso che non poteva nemmeno fare elettorale. Salvini ha fiutato l'aria e giustamente ha cavalcato la questione, quindi ha fatto una campagna elettorale porta a porta in Emilia Romagna, approfittando peraltro dell'assenza anche di Grillo, che invece è comparso all'ultimo minuto, e questo l'ha premiato. Non c'è dubbio che alcuni elettori di Forza Italia, lo stiamo vedendo proprio in questa sera dai dati di flusso, si sono addirittura spostati su Salvini, quindi anche un elettorato moderato ha visto in lui una risorsa. Infatti lei ricordava che la regione Emilia Romagna è rientrata nello scandalo delle regioni delle spese folli, anche se Stefano Bonaccini, su di lui c'è la richiesta della Procura di Bologna di archiviazione dell'indagine nei suoi confronti. Lui dice: sono fiducioso, ho potuto dimostrare l'inerenza delle spese, peraltro limitate e sostenute quando ero in consiglio, quindi probabilmente si va appunto verso questa archiviazione. Infatti io non parlavo di Bonaccini e del Presidente in quanto tale, quanto più dei consiglieri, insomma. Tra l'altro bisogna dire che Bonaccini obiettivamente ha fatto quello che poteva, nel senso che ha ottenuto il 49%, mentre nell'ultima elezione del 2010 Vasco Errani aveva il 52%, con però una larghissima coalizione con dentro tanti partiti, mentre Bonaccini era praticamente da solo col PD e SEL, quindi non ha fatto male. Certamente da qui in avanti inizia la sua sfida, cioè dovrà dare un segnale di cambiamento. Infatti lui la prima cosa che ha detto in conferenza stampa ha detto: oggi farò una giunta di grande rinnovamento, la metà dei componenti saranno sicuramente donne, ci sarà una buona dose di rinnovamento, credo che serva un mix di competenze, anche rappresentanza territoriale, però con poco bilancino e persone di qualità, cioè non tanto per accontentare, no, nel solito modo, un po' questo, un po' quello, dice persone di qualità. Però sentiamo anche la soddisfazione ulteriore di Renzi, che prima ha detto che l'astensionismo è un fatto secondario, poi sentiamo quanto è contento di questo risultato. Negli ultimi 8 mesi ci sono state 5 elezioni regionali che il nostro partito, il mio partito, ha vinto 5-0. Di queste 5, 4 erano in mano alla destra e sono andate alla sinistra. Una era l'Emilia Romagna e è rimasta alla sinistra. Oggi una qualsiasi persona normale dovrebbe essere felice per questo. Il risultato è molto importante in Emilia Romagna ed è molto importante in Calabria. Ecco, quindi ricorda, sia in Emilia Romagna che in Calabria è importante, siamo 5-0, però questo voto ha anche scatenato il malcontento delle minoranze all'interno dei partiti, dei due maggiori partiti, quelli che dovevano essere i maggiori partiti, quindi PD e Forza Italia. E Fassina, che è uno degli esponenti più critici della minoranza del Partito Democratico, ha detto: Renzi è autolesionista se non guarda la realtà, larga parte del PD che non è andata a votare non condivide le misure del governo sul lavoro nonostante la propaganda a reti unificate. E dice ancora Fassina: Renzi guardi in faccia la realtà, ascolti un minimo le posizioni diverse dalle sue. Secondo lei, appunto, lei ne faceva più una questione della correttezza, degli scandali, della corruzione, eccetera, quindi una questione di pulizia. È anche vero che le persone non condividono le misure sulla riforma del lavoro, sul Jobs Act? Questo potrebbe in parte essere una parte dell'elettorato che non ha visto con favore i toni duri verso il sindacato, ma francamente si fa fatica a dire questo dai dati anche solo di oggi. Quindi dire che sia colpa di Renzi mi sembra davvero eccessivo. Sono elezioni di secondo ordine dove notoriamente le persone non sempre pensano molto, non è il sindaco che è quello che incontri al bar o che copre le buche per le strade. Quindi devo dire che ha ragione Renzi, cioè sono rimaste 3 regioni al centro destra, mi sembra che non sia un risultato negativo per il PD. Invece per quanto riguarda la Lega, sentiamo anche prima abbiamo sentito Salvini, segretario della Lega, che ha detto come fa a disprezzare così i voti che non sono arrivati, quindi gli elettori che non hanno votato Renzi, e poi dice però noi siamo strafelici del nostro risultato. Ovviamente siamo qua a commentare un risultato dal nostro punto di vista neanche lontanamente prevedibile anche per i più ottimisti. I numeri dicono che in 6 mesi abbiamo raddoppiato i voti di persone reali, passando da 116.000 voti alle elezioni europee a 233.000 voti alle elezioni di ieri, e abbiamo quadruplicato la percentuale. Quindi siamo strafelici. sarà felici, professoressa Gualmini. Effettivamente è un risultato piuttosto inedito per la Emilia Romagna. Ma sicuramente è positivo. Poi abbiamo visto solo Salvini, mai il candidato governatore, quindi non c'è dubbio che Salvini sia un abilissimo leader politico. Attenzione però, perché nel 2010, nelle scorse regionali, la Lega aveva preso più voti, segnando proprio il picco verso l'alto, quindi Salvini è cresciuto rispetto alle europee, dove però era andato molto male. Ma non c'è dubbio che abbia raccolto il voto di protesta, tra l'altro con le parole di Grillo e probabilmente accogliendo quella parte di elettori di destra a destra che insomma sente molto vicini gli appelli securitari, politiche anti-immigratorie, che in una fase tra l'altro ancora di grande crisi ovviamente toccano molto. Professoressa, ma secondo lei perché Grillo è stato così poco presente, era poco interessato forse a queste... Perché aveva fiutato il risultato, cioè Grillo sapeva benissimo che in Emilia Romagna, dopo le divisioni interne, proprio lo spappolamento potremmo dire del partito, in realtà si sarebbe andati verso un risultato diciamo mediocre. In Calabria addirittura l'aveva detto, cioè qui non dovevamo neanche presentarci, prenderemo il 2%, e quindi forse avrebbe preferito addirittura in Calabria fare come in Sardegna, cioè non presentare il simbolo. Ha capito perfettamente che a livello subnazionale il Movimento 5 Stelle non ha ancora una classe dirigente in grado di reggere le varie competizioni, quindi fa fatica, e in più tutte le divisioni degli ultimi tempi non hanno giovato, quindi è una fase sicuramente di declino, e Grillo lo sa benissimo e ha preferito stare fuori. Comunque appunto Mauro Oliverio ha fatto un risultato pazzesco, 61,4%, però tornando alle elezioni in generale di queste due regioni, Forza Italia, Raffaele Fitto, che è sempre dato da tempo come il delfino di Berlusconi, anche se diciamo forse l'eversore all'interno, ha detto a questo punto bisogna azzerare tutti gli incarichi dentro Forza Italia. Mi auguro che nessuno si azzardi a minimizzare o a cercare alibi per il nostro drammatico risultato in Calabria e in Emilia Romagna, regione in cui siamo addirittura doppiati dalla Lega. Sì, sì, Fitto ha ragione. Io penso che dentro Forza Italia, benché non in molti lo dicano apertamente, Berlusconi sia forse più percepito ormai come un problema che non come una risorsa, perché insomma emerge da tutte le parti la necessità di cambiamento, di cambiare il leader. Per esempio notiamo che la Lega è l'unico partito oltre al PD che ha cambiato leader, cioè dopo Renzi Salvini è stato il nuovo segretario, che tra l'altro ha fatto dimenticare tutti gli scandali dei Bossi, dei Trota, eccetera. Quindi il rinnovamento conta molto per gli elettori, cioè è chiaro che Forza Italia o rinasce oppure davvero è finita, però sono processi molto lunghi, cioè è inutile sperare che dopo una leadership davvero forte come quella di Berlusconi in un anno si rimetta in piedi un partito forte. Purtroppo l'abbiamo visto anche in altri paesi europei, servono anche 5, 6, 7 o... Vedremo insomma come la leggeranno i vari partiti, compresa naturalmente Forza Italia. Grazie professoressa Elisabetta Gualmini, grazie. Grazie a voi. A presto. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di nuovo Roberta Giordano con voi, sempre i vostri messaggi continuano ad arrivare sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche al 349-238-6666. Sull'astensionismo ne parlavamo prima, delle elezioni che sono tenute ieri in Calabria e in Emilia Romagna. C'è Giorgio che scrive: la gente non vota più perché ha capito che ci stanno massacrando poco a poco. Poi Angie dice: data la politica italiana l'astensionismo è ancora basso, questo perché gli italiani amano nutrirsi di sogni. Paolo scrive: Forza Italia non è una debacle per Forza Italia, è la conseguenza dell'appoggio piatto e prono a Renzi. Vedo proprio la notizia che riguarda Forza Italia, un'agenzia di poco fa: domani il comitato di presidenza di Forza Italia sarà riunito a Palazzo Grazioli. C'è un'altra notizia che sta arrivando adesso: Ferguson nel Missouri, negli Stati Uniti, dovrebbe arrivare una sentenza a breve. Vi ricordate su quel ragazzo nero, Michael Brown, che era stato ucciso mesi fa da un poliziotto? Dovrebbe arrivare la sentenza per questo poliziotto, e si legge solo al momento che i genitori di Michael Brown sono stati informati che il giurì ha deciso, ma non dicono per il momento che cosa abbia deciso. Si temono anche manifestazioni di proteste a Ferguson, ma appena arriverà la notizia naturalmente vi aggiorno. Le altre notizie. Elezioni regionali, Renzi dice abbiamo vinto, l'astensione è un fatto secondario, ma Salvini attacca, pronto a sfidarti da nord a sud. Fitto invece attacca Berlusconi, i dati sulla Calabria intanto slittano domani, ma Oliverio ha vinto. Stati Uniti, si dimette il capo del Pentagono, Obama commenta è tempo che lasci. Ebola, il medico italiano di Emergency, il primo italiano contagiato in Sierra Leone, sarà trasferito allo Spallanzani di Roma. Il delitto di Garlasco, l'accusa chiede 30 anni per Stasi, tra poco ne parleremo nell'appello bis. E poi il garante degli scioperi dice che per il 12 dicembre non potranno fermarsi i trasporti nello sciopero generale. Poi per il calcio, Champions League, domani la Roma-Mosca, Formula 1, nuovo cambio a Maranello. Parliamo appunto dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, vicino Pavia. Nel processo di appello bis, la richiesta da parte dell'accusa per l'unico imputato, che è Alberto Stasi, è di 30 anni di carcere. Per ora però è soltanto la richiesta, Raffaella Calandra, no? Certo, Roberta, questa è la richiesta della Procura Generale, 30 anni di carcere. La Procura Generale, 30 anni di carcere, il massimo in rito abbreviato, e poi ci saranno chiaramente le discussioni della parte civile, della difesa, e poi la sentenza che è attesa il 17 dicembre. Ma nonostante il rito abbreviato si parla di 30 anni. 30 anni è il massimo per lo sconto che è previsto dal rito abbreviato, quindi diciamo il massimo che poteva chiedere la procura, quindi 30 anni, e chiede il massimo perché c'è l'aggravante della crudeltà e perché, a detta del PG Laura Barbaini, Alberto Stasi avrebbe sistematicamente cercato di ostacolare l'indagine con ripetute omissioni, e in questa lunga requisitoria di 6 ore ha citato quelli che a suo dire sarebbero stati, diciamo, le omissioni dell'imputato, che vanno al di là del suo legittimo diritto di difesa, a cominciare dal fatto che non avrebbero portato tutte le biciclette. Quella della bicicletta è stato un elemento, un indizio importante in questi ormai 4 processi diversi che quanti anni sono passati? Sono stati 7 anni, certo. È omicidio del 2007, sono 7 anni, ci sono state 3 sentenze, ci sono state già 2 assoluzioni, quindi si era già arrivato in Cassazione in realtà con certo, questo processo. Appello, primo grado, appello, Cassazione, poi la Cassazione ha annullato la assoluzione che c'era stata 3 anni fa per Alberto Stasi in appello ovviamente, disponendo un nuovo processo, perché aveva detto la Cassazione che non erano stati letti in modo univoco tutti gli indizi che erano stati raccolti fin lì, e ha disposto un nuovo processo chiedendo anche nuovi esami, e questo è anche ciò che è stato fatto in questo nuovo processo d'appello, cioè sono state disposte nuove perizie su alcuni elementi importanti, ad esempio quello della camminata di Alberto Stasi, cioè è stato fatto un esame che si chiama di camminata virtuale, ed è stato ricostruito secondo i periti consultati in questo nuovo processo che Alberto non avrebbe potuto non sporcarsi le scarpe nel momento in cui arriva in quell'agosto del 2007 nella villetta dei Poggi e trova Chiara perché lui aveva detto che l'aveva trovata entrando. Alberto già è quello condizioni. Che chiama i soccorsi, la sua voce registrata nei centralini del pronto intervento dice che era arrivata Chiara a casa di Chiara, della sua ex fidanzata, e l'aveva trovata così. Quindi è lui che dà l'allarme, ma appunto questo esame era sulla possibilità o meno che le sue scarpe si fossero sporcate o meno del sangue. Secondo questa perizia non era possibile che non si sporcassero, un elemento che la procura ha unito insieme al fatto che sono state trovate tracce del DNA di Alberto Stasi mista a quelle di Chiara sul dispenser del sapone in bagno e delle impronte sul tappetino del bagno. Quindi secondo l'accusa Alberto Stasi si sarebbe lavato le mani dopo aver ucciso Chiara. Davanti alla Corte d'Assise d'Appello il PG ha anche portato una foto che proverebbe come il racconto di Alberto Stasi sarebbe non veritiero su alcuni punti, e questo è considerato un altro elemento, anche a detta della difesa della famiglia Poggi, importante. Raffaella, c'è anche, mi sembra che abbia segnalato la procuratrice generale Barbaini oggi, anche una leggerezza, che se fosse così davvero imperdonabile, degli investigatori, quelle 4 dita sulla spalla. È quello spalla, a cui facevo no? riferimento appunto in questa fotografia. In realtà più che leggerezza, il PG è stato molto duro nei confronti anche dei suoi colleghi, degli altri che si sono occupati di questa vicenda negli altri procedimenti. Anche a proposito della camminata, ha detto che non si era mai verificato in tanti anni di attività che in due dibattimenti, quindi due sentenze diverse, non avessero preso in esame un accertamento così importante come quello della camminata. E così anche questo delle quattro impronte, che un certo tipo di fotografia senza flash ha provato, diciamo, su una maglietta di Chiara. Lo spieghiamo, cioè sulla spalla di sinistra. Sulla spalla di Chiara, sinistra, maglia. Questo proverebbe in sostanza che chi l'assassino avrebbe spostato, diciamo, il corpo di Chiara e poi fatto, trascinato e fatta solo cadere. Solo che il insomma. Problema dice che gli investigatori girarono quando trovarono il cadavere, lo girarono facendo così imbrattare tutto il pigiama e chiaramente le impronte che c'erano. Questo però è un elemento che sì, è grave, ma che, come dire, ogni tanto succede in queste indagini, diciamo, di questo tipo. Anche il problema della distruzione o del danneggiamento di alcune prove. Quindi ci sono, diciamo, dei tasselli che sono stati raccolti dall'accusa in questo nuovo dibattimento. Adesso bisognerà vedere ovviamente la ricostruzione opposta che darà la difesa. Bisogna anche ricordare che la perizia, ad esempio, sul DNA sotto le unghie di Chiara aveva detto che quel DNA era sì compatibile con quello di Alberto Stasi, ma quelle prove erano troppo poche ed erano un DNA troppo degradato per poter essere una prova, diciamo, giuridicamente sufficiente. Quindi si tratta di un processo sicuramente complicato, sicuramente indiziario, come tutti i processi indiziari, diciamo, è difficile, che paga però forse anche il fatto che all'inizio, diciamo, ci sono stati dei problemi nelle indagini, altrimenti non ci sarebbe arrivati appunto oggi. Quindi la richiesta è di 30 anni da parte dell'accusa, e quando potrebbe arrivare il verdetto? Più o meno? Il 17 dicembre, quindi tra meno di un mese si dovrebbe sapere. Esatto. Benissimo, grazie Raffaella Galan. Grazie a te. Ciao Raffaella. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Brevemente rieccomi allora con le notizie. Prima di parlare di Europa, di affrontare poi il prossimo argomento, abbiamo detto la notizia del giorno è l'esito delle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria, che è avvenuto ieri. Renzi dice vince il PD perché si prende tutte e due le regioni. L'astensionismo, che è stato molto alto, dice è un fatto secondario. La Lega intanto doppia Forza Italia. Fitto di Forza Italia attacca Berlusconi chiedendogli di azzerare tutte le nomine. Ho visto poco fa, vi dicevo, che domani è convocato l'ufficio di presidenza del partito a Palazzo Grazioli. Poi rush finale su Jobs Act, dovrebbe essere votato, si temporeggia sulla fiducia, la riforma del lavoro va approvata per mercoledì, quindi ci sono tempi stretti. Ebola, si ha notizia del primo contagio di un italiano e un medico di Emergency in Sierra Leone, nella notte avverrà il ricovero in Italia all'ospedale Spallanzani di Roma. E poi Samantha fra le stelle, la prima astronauta italiana, Cristoforetti dice, ha dato il messaggio da lì, dallo spazio, dalla navicella Isis, dice più bello di come lo sognavo, in bellissima esperienza. Obama intanto cambia il capo del Pentagono, il ministro della difesa, ci sono divergenze sulla guerra all'ISIS. In Italia rincara la bolletta dell'acqua per il 2014 del 3,9%, poi l'anno prossimo del 4,8%. Del delitto di Garlasco abbiamo appena parlato, con l'accusa che chiede 30 anni per l'unico indagato, che è Alberto Stasi. E poi alla Ferrari il nuovo ribaltone via Mattiacci, ecco, arriva bene. Europa. Europa 24 notte. Parliamo di fiabe, Pinocchio, Peter Pan, Don Chisciotte, Pippi Calzelunghe, Il Piccolo Principe, La Sirenetta e tanti altri, in tutto 28 personaggi come i 28 paesi dell'Europa, per ricordare che anche attraverso le fiabe può esistere un'identità comune. Si chiama Itinerario Europeo della Fiaba, un'iniziativa lanciata per il semestre di presidenza italiana del Consiglio Europeo e per celebrare il 25esimo anniversario della Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia, un'occasione anche per lanciare un appello all'Unione Europea affinché compia alcuni passi in avanti a favore dei diritti dei bambini, delle politiche per l'infanzia. Promotrice dell'iniziativa è l'europarlamentare Silvia Costa, presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo. La sentiamo allora al microfono di Alessandra Schepisi. Partiamo da questa immagine. Se ci pensiamo bene, anche come ex bambini, l'immaginario dei bambini attraverso le favole, che sono un patrimonio straordinario, è in fondo un immaginario europeo. Se noi scorriamo la cartina d'Europa, vediamo Grimm, Perrault, Andersen, con Lodi. E allora, partendo da questo assunto, ed essendo io un'appassionata di itinerari, quando con la Fondazione Collodi ci siamo parlati, perché loro hanno già un parco tematico di Pinocchio, lo sai che Pinocchio è il personaggio che è più conosciuto nel mondo, tradotto in 90 lingue e in 260 idiomi, ecco, tanto per dirle. Allora, quindi è chiaro, Pinocchio è un po' la mascotte. Quindi Pinocchio è la mascotte, quindi tutto nasce da Pinocchio, e nel senso che la Fondazione Collodi ha deciso di giocare una carta europea, abbiamo avuto un po' insieme, diciamo, questa idea, perché non far nascere da Collodi un itinerario europeo della fiaba, che si presta poi a moltissime declinazioni, che lo puoi immaginare, e loro sono stati molto bravi, perché hanno, insieme a questo polo dell'innovazione di Lucca, hanno fatto una verifica, una specie di topografia dell'Europa con tutti, ogni paese è stato coinvolto, cioè ognuno ha un personaggio più o meno conosciuto, più o meno amato, eccetera. Questa cartina ideale dell'Europa potrebbe costituire effettivamente quella la base di un itinerario che è insieme reale e virtuale, e le istituzioni che hanno aderito sono, ripeto, una per paese. Per esempio, io manco mi ricordavo che, non so, Bambi fosse austriaco, Mumin che è il personaggio dei bambini finlandesi, c'è cioè il piccolo principe Grimm, gente tedesco, Nemecek che è questo personaggio delle favole ungheresi, Pippi Calzelunghe della Svezia, Don Chisciotte della Spagna e così via. In generale, quali sono gli obiettivi di questa iniziativa? Gli obiettivi che ci si propone sono intanto proporlo al Consiglio d'Europa, che sa, è il Consiglio d'Europa che decide attraverso l'Istituto del Lussemburgo, che è il comitato scientifico, la possibilità di creare un nuovo itinerario, no? Primo, che ha il target bambini, ecco, e quindi anche letteratura, ma anche teatro, pensate, e poi io ho detto sì, c'era una volta ciò che accomuna, ma poi ci sarà anche il futuro. Quello per esempio di incentivare l'editoria per i minori, il teatro per i ragazzi, penso anche a tutto il fatto dello scambio di conoscenza attraverso mostre e percorsi, quindi può essere uno scambio straordinario, e poi quello di costruire anche i percorsi virtuali. Ecco, tutto questo nel 25esimo anniversario della firma della Convenzione esattamente per i diritti dell'infanzia, tra l'altro sono usciti anche dei dati, parlano da noi di, insomma, di un raddoppio dei minori in povertà assoluta, lo so. Insomma, un allarme. Esattamente, la favola è un modo per non dimenticare anche la realtà chiaramente dei minori, per dire a che punto siamo in Europa sulle politiche e sulle cose, e secondo me c'è una questione che va affrontata. Quindi abbiamo preso due impegni molto importanti con altri colleghi parlamentari. Il primo, stiamo raccogliendo le firme, stiamo di farcia per creare un intergruppo per Parlamento europeo sui minori, perché altrimenti la competenza è frastagliatissima e non olistica, per avere il quadro e poter fare delle iniziative anche più mirate. E dall'altra la grande questione della convenzione. La convenzione ha compiuto 25 anni, ma è stata siglata da quasi è la convenzione più siglata dagli stati in generale, ma vediamo quanto spesso non vigilata, non implementata e non monitorata. Allora io ho chiesto e ho mandato una lettera in questo senso insieme ad alcuni colleghi parlamentari europei per chiedere alla Commissione europea, che sia l'Unione europea in quanto tale, a ratificare la convenzione, il che significa che può vigilare, che può richiamare gli stati membri laddove non sono adeguati, e che veramente in Europa l'interesse del minore deve essere considerato prioritario nelle diverse legislazioni, nelle politiche e nelle priorità dei programmi. Questo sarebbe un passo in avanti di fronte alla situazione che vediamo e che non è abbastanza presidiata. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Ancora qualche vostro messaggio sull'astensionismo di ieri, a chi dare la colpa, se è responsabilità della politica oppure il fatto che non ci fosse stata abbastanza informazione. Mi pare che siete tutti più o meno d'accordo sulle mancate risposte, sui politici che non cambiano. Sulla pagina Facebook di Effetto Notte Elena scrive: noi elettori siamo disorientati, vorremmo dare fiducia ma abbiamo capito che ci carpiscono la fiducia, quindi stiamo a guardare il da farsi. Comunque personalmente penso che non andare a votare sia un errore. Vediamo invece che cosa succede diversamente negli Stati Uniti. Parliamo con Marco Valsani, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Ciao Marco. Ciao. Di questo colpo di scena nell'amministrazione Obama, cioè la notizia è che oggi si dimette il capo del Pentagono, quindi diciamo il ministro della difesa, no? Chuck Hagel, però poi c'è il commento di Obama che dice è tempo che lasci, quindi una specie di spinta gli ha dato a queste dimissioni, non sono state proprio così spontanee, Marco? Sì, non sono, come dicevi tu, sì, non sono state esattamente molto spontanee, hanno fatto sicuramente sfoggio, diciamo così, di accordo, di aver preso una decisione, diciamo, una decisione comune, ma in realtà Obama, collaboratori di Obama hanno fatto sapere in modo anonimo che comunque Obama a questo punto era insoddisfatto della leadership che offriva Chuck Hagel al Dipartimento della Difesa davanti alla necessità di un cambio di strategia. Hagel era arrivato al Pentagono con la missione datagli da Obama di gestire un ritiro dai conflitti in Iraq e in Afghanistan e una riduzione del bilancio del Pentagono. Adesso l'agenda di fatto è cambiata perché Obama si ritrova di nuovo sul piede di guerra in Iraq e in Siria contro lo Stato Islamico e anche ad affrontare nuove escalation di crisi in Ucraina con il comportamento della Russia e anche per non dimenticare poi anche la crisi legata alla minaccia dell'epidemia di Ebola. Quindi richiede, secondo Obama e secondo i suoi collaboratori, a questo punto una leadership al Pentagono più attiva, più determinata, un diverso tipo di segretario alla difesa. Senti Marco, intanto vedevo questa notizia della sentenza che dovrebbe arrivare in queste ore a Ferguson, nel Missouri, negli Stati Uniti, a proposito del giovane nero Michael Brown che fu ucciso da un poliziotto, era assolutamente disarmato, di lì naturalmente grandi polemiche, disordini e poi il processo al poliziotto. Leggevo solo che sono stati informati i genitori di Michael Brown, del ragazzo morto, che il giuria avrebbe già deciso. Tu che sei lì negli Stati Uniti hai avuto qualche altra informazione un po' più dettagliata? Al momento non ci sono ancora indiscrezioni, si sa però che l'annuncio della decisione del Grand Jury dovrebbe arrivare in serata, è possibile anche che arrivi nel giro di un'ora o poco più. Ricordiamo che il Grand Jury statale deve decidere se incriminare o meno il poliziotto, l'agente che ha ucciso Michael Brown, e il Grand Jury ha di fronte varie possibilità di scelta, può incriminarlo per omicidio di secondo grado, come si dice qua negli Stati Uniti, che di fatto è un omicidio così colposo, quindi colposo, esatto, non volontario. Esatto, oppure per reati con vari gradi di aggravanti o meno, ecco. Quindi l'attesa è spasmodica proprio perché, come ricordavi tu, Ferguson è diventato il simbolo delle difficoltà di risolvere la questione razziale, delle polemiche sul comportamento della polizia nei confronti delle minoranze etniche e quindi la decisione del Grand Jury se incriminare o meno il poliziotto ha assunto contorni politici anche e razziali non indifferenti. Con le possibili proteste che speriamo non ci saranno, ma che potrebbero esserci. Io intanto ti ringrazio, Marco Valsania, grazie dagli Stati Uniti. Vedremo se nel corso delle 22, entro le 22, entro 4 minuti arrivi la notizia, vi aggiornerò.